l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato 16 di maggio, sono le 10, praticamente quasi 10 minuti, sempre più tardi, siamo in diretta agli studi di Radio di Milano e a salutarvi oggi in studio, qui c'è una versione ristretta dei compari, vero? Perché però io ho quattro nomi, quindi faccio conto doppio, sono bisvalida, ciao a tutti, sono Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ma comunque ci colleghiamo nel secondo blocchetto tra poco della trasmissione con il rituale punto sul seminario in crisi, conti della crisi italiana, sarà al telefono con noi Mario Seminario e poi alla fine nell'ultima mezz'ora saremo al telefono anche con il nostro Renato Cifarelli. Allora auguri a chiunque si chiami Sant'Ubaldo, perché oggi è Sant'Ubaldo. Io ho in mente una cosa che però al femminile, ma poi no, ormai denoti la tua età, sei un vecchio fan dei film di DJ Fenech. Mamma mia, a parte che è una gran donna, ho capito, però adesso ha le turbe ormonali, Carlo Alberto, ma no, a quest'ora la mattina. Mi riferivo al suo contributo all'arte e alla scienza. All'arte e alla scienza, va bene. Allora, detto questo, come sempre all'inizio di trasmissione io faccio una specie di resume dei temi belli e arrabbiati che trattiamo, perché lo spirito della trasmissione ve lo ricordo è quello che... Suonate la carica! Appunto, una carica minoritaria rispetto alle vostre idee, però vi invitiamo da subito, ora che vi dico i punti su cui oggi approfondiamo, a andare sul sito, se siete collegati a casa eccetera, sul sito di Radio 24 troverete su programmi il palinsesto di oggi con tutti gli argomenti, i testi per approfondire e i nostri ospiti, ma in sintesi è questo. Cominciamo come sempre sulla notizia della settimana, i conti dell'Italia. Sapete che c'è la certificazione ufficiale che siamo fuori dalla recessione, con questa prima stima preliminare del primo trimestre di più 0,3 del PIL. Vedremo che cosa vuol dire, quante molle usare nel prenderlo, perché nel frattempo, come avete visto, l'Unione Europea già ci chiede una limaturina sul DEF, che è superato dalla sentenza delle pensioni, conti pubblici. Insomma, vedremo un secondo di approfondire su questo. Poi abbiamo tre grandi blocchi su tre grandi questioni. La prima questione, visto che c'è stato l'accordo nell'Unione Europea, non accordo perché non risolve niente, comunque facciamo finta di credere che c'è stato un primo accordo sulla questione dei rifugiati, degli immigrati e dei richiedenti asilo, ci porremo una domanda: ma ha ragione o ha torto secondo voi il ministro Alfano, che dice abbiamo in realtà tantissimi profughi non registrati in Italia e tanti clandestini, tantissimi, vedremo i numeri, che noi ne identifichiamo pochi e ne perdiamo per strada tantissimi, non sappiamo quanti sono in Italia, però dice Alfano fateli lavorare gratis, e la domanda sarà: ma ha ragione o torto Alfano? Torniamo al sano schiavismo, ai tempi del cotone raccolto nei campi, che dici tu Carlo Alberto, subito in una battuta? È un'idea bizzarra. Alquanto bizzarra. Comunque avremo degli ospiti. Nel frattempo lasciatemi dire, a proposito di cotone, che io sono un po' a lutto oggi perché la morte del grandissimo, proprio tre volte grandissimo nume del blues, che è scomparso alle soglie dei 90 anni, dico B.B. King. Per me B.B. King è una delle massime espressioni della divinità su questo pianeta. Io amo tantissimo blues, mi piace tantissimo gente come T-Bone Walker, Blind Lemon Jefferson, ma la morte di B.B. King è veramente il segno della fine di un'epoca. Per quello che mi riguarda, viva Lucy la sua chitarra, penso che nell'aldilà ne approfitteranno, ci sarà il primo concerto oggi stesso di B.B. King. Ma detto questo, ne ho parlato perché cotone, a me questa idea di far lavorare gratis chiunque, anche gli immigrati, mi evoca lo schiavismo, ma vedremo, magari voi sarete d'accordo, avremo dei sindaci che ce ne parlano, voi chiamateci all'800 24 0024 349 238 6666 per gli sms e naturalmente interloquite con il nostro account Conte della Belva su Twitter. Poi abbiamo un secondo blocco di questioni che riguarda la scuola, visto che siamo nel centro di questo braccio di ferro tra Renzi e i sindacati della scuola. C'è stata questa bella prova del boicottaggio delle prove in Valsi e parleremo soprattutto di questo, perché noi abbiamo una certa opinione sul boicottaggio delle prove in Valsi, cioè veicolare da parte dei docenti in sciopero e in lotta agli studenti l'idea che bisogna sottrarsi alla verifica di oggettiva, diciamo, e non penalizzante peraltro per l'individuo, perché è una valutazione statistica alla fine. Questa è vera, trasmettere questo è uno degli atti più diseducativi che io possa concepire. Pagare le tasse perché degli insegnanti dicano ai nostri figli che sottoporsi a una valutazione europea e mondiale per migliorare la scuola sia invece saggio e difendere la democrazia è veramente inqualificabile. Infatti vedremo anche su questo come la pensate. Abbiamo degli ospiti naturalmente con delle proprie opinioni. Poi terzo blocco sulle pensioni, perché c'è la questione aperta ancora, cosa fare, cosa non fare rispetto all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, e noi però ci porremo il punto di vista da parte di chi le pensioni non le avrà o quasi e paga molto più contributi in termini di aliquota sul suo scarso reddito rispetto alle generazioni che hanno maturato le pensioni con il retributivo e che adesso siamo chiamati ulteriormente a rimborsare da parte esattamente di chi le pensioni non le avrà e intanto paga aliquote molto più alte. Quindi scegliamo un punto di vista un po' controcorrente rispetto a quelli degli altri. Ma intanto, caro Alberto, cosa ti ha fatto arrabbiare questa settimana? Guarda, ieri sera è uscito il giudizio di Standard & Poor's che sostanzialmente, dopo tutto questo gran cassa sulla ripresa dell'Italia, ci mantiene sulla soglia del baratro, cioè al tripla B meno, con un outlook stabile, tradotto in italiano. Dice: non vi siete spostati di un millimetro dal rischio morte fisica e finale. Questo fa un po' il paio, diciamo così, con invece l'orchestrone sulla ripresa che è iniziata. E ci sta dicendo una cosa fondamentale, che il paese sta vivendo un piccolo, come dire, elemento di ripresa soltanto per condizioni esterne. È solo il vento esterno che ci spinge avanti, perché tutte le agenzie di rating dicono che da noi e di noi non stiamo in realtà modificando le condizioni. Quindi se nel 2015, occasione storica per l'Italia per ripartire, ci becchiamo tripla B meno e outlook stabile, io non so veramente al primo refolo di vento contrario che cosa può succedere. Intanto raccontiamo che da gennaio il petrolio è aumentato del 50%, è passato da 42 a 63 dollari, siamo sempre molto lontani dai 114 dollari di metà 2014, ma intanto segnale che la finestra si può chiudere. È finito la svalutazione per il momento dell'euro sul dollaro, perché anche lì l'euro ha iniziato a riapprezzarsi più o meno più 11% dai minimi che aveva toccato, e i tassi di interesse hanno ripreso a salire. Però c'è una buona notizia, sì. Ieri la Corte Costituzionale, il relatore Giuliano Amato, ti è suggerito, perché poi le spariamo addosso, però in questo caso fammela celebrare, no? Ha correttamente dichiarato illegittima l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, pari al 58,5%, perché noi quando mettiamo le tasse siamo gente seria, cioè 58% di tasse. Perché? Perché effettivamente la discrezionalità non è incondizionata, quindi le sigarette elettroniche invece non hanno assolutamente il bisogno di essere tassate così, e quindi meno male, perché è una bella innovazione. La gente impari a fumare sigarette elettroniche se vuole, tu continua col tuo sigaro analogico, nessun problema. No, ma nel frattempo ti faccio osservare che lo Stato, rispetto ai 117 milioni che prevedeva di incassare nel 2014, ha incassato, ce l'ha detto il MEF, 7.000 euro. Primo. Secondo, hanno distrutto comunque un settore, perché il settore ha dovuto, cioè la gente che si era impegnata per aprire i punti di vendita li ha chiusi, eccetera eccetera. Questo è lo Stato ladro, non sa fare i conti prima. B, associa sostanze pericolose e nocive come la nicotina ciò che non lo è, la sovrattassa. Perché? Perché difende le sostanze nocive, perché è di lì che fai più delle tasse, cioè dalle sigarette, ed era proprio la concorrenza alle sigarette ordinarie che ha mosso, esatto, questa supertassa. Senso, no? Quarta cosa, distrugge un settore. Quinta cosa, non incassa un cazzo. Uno Stato di falliti ladri. Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci tornati in diretta con me, il compare qua in studio, Carlo Alberto. Ma è collegato con noi anche il compare Mario. Ci sei, Mario? Eccomi, buongiorno a tutti. Eccoci qua, Mario Seminiero. Perché con Mario, come sapete, all'inizio di ogni trasmissione, come ogni sabato, c'è un appuntamento rituale. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. E la crisi, come a volte ascoltatori ci chiedono, ma perché dovete parlare sempre della crisi di Mario Seminiero? No, non è Mario Seminiero in crisi, è Mario Seminiero che parla sulla crisi e sul punto della crisi. Mario Seminiero in realtà conduce una vita privata e professionale piena di successi e io lo invidio molto perché è una persona serissima, apprezzatissima, amatissima. Certo, molti politici hanno imparato, vorrebbero sopprimerlo, però detto tutto questo noi gli faremo da sempre scudo. A proposito di scudi, bellissima l'apertura del Fatto Quotidiano di oggi che fa un conto degli agenti di polizia mobilitati per le manifestazioni di Salvini. 8.465 agenti di polizia per Salvini, tanti sono per il Viminale gli uomini mobilitati per tutte le manifestazioni del capoleghista. Caro Cicosti, Salvini, non vorrei scudi dire. Umani per i talleri futuri, esatto. Dire, no? Però allora con Mario una riflessione seria, perché devo dirti Mario, già prima di cominciare, quando ho annunciato che avresti interpretato questo fatto della settimana, cioè i dati che dicono finita la recessione, i dati del primo trimestre più 0,3%, già è arrivata una raffica di sms ad ascoltatori molto critica con già il centro studi di Confindustria, ubriachi che vedete la ripresa dovunque e così via. Diciamo che abbiamo gli ascoltatori che hanno capito che noi non siamo proprio di quelli che soffiano sul vento dicendo è cambiato tutto. Però dai Mario, seriamente, hai scritto come sempre su fastidio.net, io rinvio al sito di Mario perché è uno dei più puntuti e seri controargomentatori sui fatti, che sono quelli che contano. E insomma, partiamo di qua. È finita questa recessione, come dobbiamo prenderlo questo dato, Mario? È stato un trimestre estremamente positivo, perché in verità io sono stupito dal fatto che la Francia abbia fatto più 0,6%, sì. che per un paese diciamo in stato comatoso come la Francia è un boom senza precedenti. Poi siccome il loro Istituto Nazionale di Statistica riesce a dare la disaggregazione già prima rispetto sulla prima stima rispetto al nostro Istat, che ha bisogno più di tempo per disaggregare i dati, pare che abbiano fatto molto i consumi in Francia. Quindi probabilmente la componente di forte disinflazione in un contesto un po' meno cupo per quanto riguarda i conti pubblici e le scadenze, gli impegni e la corda, il cappio europeo, probabilmente ha fatto il resto. Però io ripeto, come ho scritto questa settimana nell'articolo che è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano, l'importante è contestualizzare, perché uno 0,3% bisogna vedere da cosa sarà stato fatto. Istat ha già anticipato che abbiamo una componente di commercio estero negativa, quindi abbiamo avuto meno export e più import, e questo va interpretato. Una componente di domanda interna positiva, ma questo può essere dovuto a qualunque cosa, può essere dovuto all'accumulo di scorte. L'accumulo di scorte di per sé è positivo se le aziende ci danno dentro con la produzione industriale, perché hanno una ripresa di vigore degli ordinativi. Può essere negativo se l'accumulo è involontario, cioè se le vendite rallentano e quindi si è prodotto per il magazzino. Io epidermicamente credo che sia possibile l'interpretazione benevola, lo sapremo tra un paio di settimane o giù di lì, però ripeto, continuiamo a contestualizzare, perché una rondine non fa primavera, un singolo dato dopo 4 anni di dati assolutamente pessimi fa ancora meno primavera. A me, io mi sono esibito in una clamorosa divinazione alla Nostradamus, perché come avrete forse visto su Fastidio, io intorno alle 8:30 del giorno in cui è stato pubblicato il PIL italiano ho detto facciamo una divinazione, se uscirà più 0,3, visto che la Germania ha fatto 0,3, qualcuno dirà abbiamo ripreso la Germania, abbiamo pareggiato. Infatti, puntuale come le tasse, la morte, la propaganda, pochi minuti dopo l'uscita del dato Istat è arrivato il tweet di Jörn Gutgeld, no? Il parlamentare e responsabile della spending review, della fantomatica spending review, che ha detto nel primo trimestre della prima legge di stabilità del governo Renzi l'Italia ha ripreso la Germania e ha pareggiato. Per cui, cioè, diciamo, la cosa che a me affascina molto, no? Le notizie positive, non c'è un lag tra la causa e l'effetto, già con la sola imposizione delle mani vi gonfio il PIL, Mentre invece le notizie negative, no, però ci vuole tempo perché gli effetti necessitano di tempo per andare a regime, per cui è deliziosa questa asimmetria dei nostri trombettieri di corte. Abbiamo un governo ad asimmetrie causali, se possiamo assolutamente dire. Sì, e soprattutto per quanto riguarda la spending review, visto che stiamo parlando del nuovo zar, la spending review, non sarà sfuggito le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia, che praticamente dicono che l'Italia nel 2014, ai fini di spending review, non ha fatto un beneamato accidente. Piffero, sì. Esatto, perché dice la spending review non è ancora parte integrante del processo di bilancio e questo pesa sull'esercizio a lungo termine. Secondo me la spending review non avverrà, secondo me il recupero di risorse o avverrà tramite la crescita e quindi ci sarà un aumento spontaneo di gettito fiscale, oppure avverrà con un aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria, che tradotto vuol dire ticket, e un aumento della compartecipazione ai costi di gestione del trasporto pubblico locale. E questo è lo scenario che io ho davanti e spero di essere smentito dalle circostanze. No, no, ma sempre che poi la local tax non sia un ulteriore meccanismo attraverso il quale integrare con più tassazione sugli immobili locali, esatto, quel che si taglia alle autonomie nelle leggi di stabilità. Ricordiamo che nel set delle raccomandazioni di questa settimana la Commissione Europea si è espressa sul DEF, un DEF già superato dai fatti in realtà, perché la sola sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni lo condanna a un orizzonte del passato, perché è finito il tesoretto che era finanziato in deficit per 1,6 miliardi e anzi nelle raccomandazioni ci si chiede, ed era contro il tesoretto esattamente, di migliorare il margine del deficit di 1,01, era evidente sia pur senza dirlo al governo, senza metterlo in imbarazzo, che l'idea del tesoretto finanziato in deficit non piaceva a Bruxelles, ma la verità è che siamo di nuovo oltre il filo del 3%, il governo è in difficoltà, non sa come dire prima delle elezioni regionali se in che modo affronta solo parzialmente il rimborso delle pensioni tre volte il minimo per adempiere alla sentenza della Corte, il Quirinale non vorrebbe che aspettasse tempo, gli dice no ma tu devi spiegare comunque, lo fai prima, lo scenario delle regionali è cambiato e si teme anche per la Liguria e non solo per il Veneto, per il PD, c'ha i sindacati contro sulla scuola molto più fortemente di quanto immaginasse. Questo è il quadro di fondo, ma il quadro di fondo, ripeto, resta di una stima di crescita che è coerente a un più 0,6, più 0,7 diciamo anno, cioè quello del paese che cresce di meno tranne Cipro, l'unico che cresce meno di noi in tutta l'Unione Europea. Questo è il punto di fondo, con un PIL che continua a essere a meno 9,4 percento punti rispetto ai massimi del 2007, cioè abbiamo, con un'occupazione che alla fine del primo trimestre rispetto al 31 dicembre 2014 aveva 111.000 occupati in meno in Italia, non in più. E poi fatevi voi tutte le vostre polemiche, cari ascoltatori, se preferite che sul totale degli occupati ci siano più contratti a tempo indeterminato, no, più contratti del nuovo Jobs Act, in cui poi si può, come è meglio, però si può licenziare la gente dandogli per un giusto motivo sei mensilità, da 4 a 6 mensilità, non è il vecchio tempo indeterminato. Quello che interessa a me è invece è che sono meno occupati, non di più, e questa è una brutta questione se tenete conto che noi stentiamo a stare sopra il 55% di occupati fino a 64 anni, siamo al 55,7%, è uscito il dato del Regno Unito questa settimana, loro sono al 73,5%, cioè stiamo alla bellezza di 18 punti percentuali meno del Regno Unito, tanto per avere un ordine di grandezza su cosa succede, succede in Europa. Tu che dici, caro Alberto, qual è la tua opinione su questo più 0,3%? Meglio che niente, però? No, però sono preoccupato della componente export, perché se anche in questa situazione qua ci dovesse veramente dare un rimbalzo negativo all'export, purtroppo vuol dire che non stiamo sfruttando una finestra d'opportunità importante, e qui probabilmente ci sta anche l'outlook di cui chiedevo anche qui un giudizio a Mario, no? L'outlook di Standard & Poor's che rimane stabile, cioè non coglie segnali di miglioramento. Non so cosa ne pensi tu, Mario, dei giudizi dei rating di ieri sera. Ma io ti confesso che ho smesso, diciamo, di seguire i rating, perché un po' coerentemente con quello che scrivo, il livello di discredito nei rating sovrani e soprattutto il livello di ritardo strutturale, diciamo, delle agenzie di rating nei rating sovrani oramai ha sancito quello che è, secondo me, un processo inarrestabile di declino di questo strumento per quanto riguarda l'attività di gestione. Ciò non di meno, guardiamo la componente politica della considerazione. Io sono d'accordissimo con la tua introduzione, cioè tripla B meno, quindi sul ciglio dell'investment grade è un passo da quello che giornalisticamente si chiama spazzatura o junk, con outlook stabile, nel bel mezzo di, ribadiamolo ad nauseam, una congiuntura fatta di elementi positivi, probabilmente irripetibili. Quindi il cambio che però questa finestra di opportunità si sta già socchiudendo e rischia di richiudersi. Quindi io ricordo quando ero ragazzo, quindi sono passate alcune migliaia di anni, esatto, c'erano ancora le bighe che scorrevano per strada, che l'Italia, appena c'era una fase di ripresa, l'Italia faceva delle fiammate terrificanti, si danneggiava la bilancia dei pagamenti perché importava a manetta ed esportava meno, dopodiché arrivava immancabile la svalutazione competitiva che in realtà era un riallineamento e si tirava una riga. I bellissimi tempi che un grande guru pescarese, la sua sette, come il Corano cita le sue sure, indica come il miglior tempo della storia italiana. Io ti devo diffidare, caro Mario. Ti facciamo monitorare. Sì, però quello che io volevo dire, diciamo, al di là di alcune posizioni ideologiche, interpretative o di ritorno ai bei tempi che furono, ammesso che fossero realmente belli, esatto, questo paese in tutte le sue fasi congiunturali ha in realtà una struttura di fondo che è laggard, cioè è ritardatario sul resto dell'Unione Europea e sul resto dei paesi con cui ci confrontiamo. E io sono veramente preoccupato da questa serie di congiunture, perché se noi riusciamo a crescere con il freno a mano tirato e abbiamo una serie di squilibri impressionanti che si stanno accumulando, anche lo stesso problema, no, di quanto costerà le conversioni secondo il Jobs Act dei contratti in tempo indeterminato, e non avremo capienza in corso d'anno e non stiamo producendo occupazione, noi stiamo semplicemente prendendo a prestito del tempo. Esattamente. Che molti di quelli che mi ascoltano saranno infastiditi, certo, pensano che come al solito ce l'abbiamo col governo, eccetera, eccetera. Esatto, cioè io ribadisco una cosa, e questa cosa vorrei proprio dirla perché poi magari qualcuno la fraintenderà: in questo momento io non vedo alternative credibili al governo di Matteo Renzi. E questa è la tragedia di questo paese. Ma sì, la tragedia perché è solo in campo, perché c'è una destra che non esiste, eccetera, eccetera. Perché non esistono proposte, perché esiste uno schieramento demagogico populistico che gioca di rimessa. Basta vedere tutti coloro che hanno votato la riforma delle pensioni a destra, che sono in gara adesso nei talk a dire tutto, restituiamo tutto, ma se l'avete votata, ma roba. Esatto, cioè sono diventati legalitari, costituzionalisti, letteralisti della Costituzione, poi fossero stati loro al potere con una sentenza del genere avrebbero gridato al golpe. Figuriamoci. Cioè, questo è un paese che soffre di amnesia, ripeto, la memoria di un pesce rosso, un tasso di demagogia che se lo fotterà. Ecco, speriamo di no, però il nostro compito è dare numeri e argomenti per far riflettere chi è a casa su questo. Io ricordo che il solo costo della trasformazione con la decontribuzione dei contratti a tempo indeterminato per finta del Jobs Act è di 12 miliardi in 3 anni, e non basteranno, cioè un po' meno di 2 miliardi quest'anno, 5 miliardi per il 2016, 5 miliardi ed è un costo di trasformazione, cioè, senza fare occupazione aggiuntiva per il momento. Chi lo diceva, come me, come il professor Luca Ricolfi, come il professor Tirabuzzi, chiedendo incentivi per i contratti aggiuntivi, non per quelli sostitutivi, è stato deriso. Se spendiamo 12 miliardi per non avere occupazione aggiuntiva, siamo dei fessi, siamo dei pirla. Mi dispiace dirla, è così. Intanto, grazie Mario per i conti sulla crisi, a che punto siamo sulla crisi. E adesso cominciamo, dopo la pausa di un minuto, con il nuovo blocco. Facciamo lavorare gratis gli immigrati, visto che non riusciamo a metterli in regola. Gratis. Tra un minuto. Della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta a 10:37 primi e 49 secondi con il compare insieme a me, Carlo Alberto e Oscar. Siamo in una formazione ristretta oggi. Allora, iniziamo questo blocco ponendoci la domanda. la domanda, noi lo diciamo in termini di domanda, però per il ministro degli interni Alfano invece è una certezza. Fateli lavorare, cari sindaci, cari comuni, gli immigrati, invece di protestare, non li volete, prendete mano d'opera gratis. Io ricordo solo due cifre lì, questa settimana c'è stato questo primo accordo in sede europea con le due quote per, tra virgolette, spartirsi, insomma, attribuirsi chi ha chiesto asilo dei già in regola e per le quote attuali e future di rifugiate. Le due percentuali sono una l'11%, l'altra il 9%, perché cambia il numero di paesi rispetto all'Unione Europea 28 che aderiscono e compartecipano, come sapete la Gran Bretagna e altre sono tirate fuori. Detto questo, l'amara realtà è un'altra. Oggi sulla stampa ci pensa Guido Ruotolo a dire: l'Italia degli irregolari resta un esercito di invisibili, dopo lo sbarco vivono da clandestini ai margini delle città. In 4 anni noi ne abbiamo rimpatriati 70.000 su 150.000, dove sono gli altri? Gli altri 80.000 sono tutti passati alla frontiera del Brennero, dove i nostri tengono gli occhi chiusi pur di che vadano in Austria e Germania? La risposta è no, noi abbiamo ancora un enorme fenomeno di clandestini nel nostro paese. Ma la domanda è quella che ha posto il ministro Alfano, e quindi tentiamo di approfondire su questo. Prima di presentarvi i nostri ospiti, iniziamo a sentire come la pensate direttamente voi. Cominciamo con Giuliano, che ci chiama dalla provincia di Roma. Giuliano, prego, sei favorevole o contrario alla proposta un po' schiavista di Alfano? Buongiorno Giannino. Buongiorno. Grazie per l'ospitalità. Si figuri. Guardi, io la proposta di Alfano la trovo inutile e idiota come chi l'ha avanzata, perdoni i termini. Capisco il giudizio della proposta, quello su Alfano, come sa, ne porta la responsabilità. Il ministro interno ha armi potenti. Per carità di Dio. Guardi, piuttosto io mi richiamerei alla proposta che aveva fatto Oliviero Toscani tempo fa anche alla Zanzara. Sì. Visto che siamo noi italiani che ci facciamo carico, soprattutto fiscale, di queste persone, lo Stato dovrebbe permettere agli italiani di ospitare, retribuiti ovviamente, questi immigrati senza pagare alcuna tassa. Posso mettere 4 immigrati a 35 euro al giorno? Questi per me devono essere esentasse. Visto che facciamo beneficenza, cerchiamo di guadagnarci un po' tutti, no? Quindi è un incentivo, non è di non stare a guadagnare, però è un incentivo fiscale. Lei sa che noi siamo dei specialisti con il nostro fisco per disincentivare, non altrettanto per incentivare. Altro flash, su quella della sera trovate l'intervista al ministro degli esteri Paolo Gentiloni, in cui, siccome quello che conta davvero per poter fare delle azioni serie nei confronti della Libia, del paese d'origine, dei barconi, conta la delibera, una risoluzione dell'ONU che non è ancora arrivata, ma ci si sta lavorando. C'è intervista al ministro degli esteri che dice: incursioni mirate, azioni navali, così agirà la missione Unione Europea in Libia. Vedere per credere, io ho molti dubbi che si metta in piedi davvero una cosa di questo genere, comunque vedere per credere. Allora, abbiamo degli ospiti con i quali approfondire questo tema, ma le parole di Alfano sono campagna elettorale oppure possono concretamente funzionare così? Come funzionano in alcune realtà locali? Abbiamo con noi un sindaco per capire loro come agiscono davvero. È il sindaco di Cali Zano, nel Sabonese, Pierangelo Olivieri. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. E poi abbiamo Silvia Turelli, che è alla testa di una cooperativa, l'operatrice di una cooperativa K-Pax opera in Val Camonica. Silvia Turelli, buongiorno e grazie Silvia. Buongiorno a voi. Allora, cominciamo con il sindaco. Ci spieghi, a Calizzano innanzitutto questo il fenomeno dei rifugiati, degli immigrati, eccetera, eccetera. Da quanto avete a che fare con il fenomeno? Come vi siete regolati? E soprattutto utilizzate immigrati in regola, non in regola, per il lavoro? Ma li pagate o gratis, come dice il ministro? Ci dica un po', signor sindaco. Allora, cerchiamo di essere chiari. Sul nostro territorio una delle cooperative che ha partecipato a uno dei bandi della prefettura ha individuato e ha in gestione una struttura privata, che è un albergo in Calizzano, dall'autunno scorso, dall'ottobre scorso. Una struttura che è stata autorizzata per ospitare 40 migranti e pressoché da subito sono stati 20, è andata a regime, diciamo, a fine ottobre, primi di novembre, con la presenza costante, con una parte fissa, qui il gruppo maggiore del Mali fin quasi dall'inizio, e alcuni che sono sono cambiati nel corso del tempo. Con questa cooperativa ci siamo confrontati, ovviamente appena il fenomeno si è verificato sul territorio a livello di comunità è partito un tantam, un po' di agitazione. Noi siamo un comune piccolo a livello di popolazione, 1500 abitanti nell'entroterra savonese di Ponente, a vocazione storica turistica, perciò con strutture ricettive, e dove l'inverno è vero, anche se siamo in Liguria, nevica, e la situazione ha subito addestato un po' di scompiglio. Quindi l'amministrazione, lei come sindaco si è trovato esposta ai cittadini che dicono: che state facendo? Sì, anche perché la procedura dal Ministero alle prefetture non prevede una parte autorizzativa dei comuni. I comuni non hanno un ruolo decisorio in questa procedura, ci tengo a precisarlo. Individuata la struttura ritenuta idonea, come è sicuramente questa struttura, e il contingentamento, che è un termine abbastanza forte, ma sì, della provincia, la prefettura poi assegna ai diversi soggetti, associazioni, cooperative partecipanti, e loro, in base alle strutture che hanno in funzione, concordano con la prefettura dove collocarli. Noi con la cooperativa e con la prefettura e la questura, con cui abbiamo un ottimo rapporto tra enti di collaborazione, abbiamo poi iniziato allora a confrontarci nel momento in cui abbiamo appreso, scoprendo di questa situazione, chiedendo alcune. Noi siamo lontani dai centri di primo soccorso, l'ospedale più vicino da noi è a 40 chilometri, e dunque abbiamo concordato ad esempio che non vi fossero situazioni più delicate, come famiglie con donne incinta, minori, perché ovviamente siamo lontani dai centri di primo soccorso. Ci siamo confrontati con la struttura, abbiamo una stazione dei carabinieri sul territorio che interessa un'area molto più vasta però del nostro comune, perché dicevo, siamo piccoli ma siamo il quinto comune per estensione territoriale. Però questa esperienza poi di lavoro nella città è poi partita. Sì, è partita con la collaborazione con la cooperativa, sotto placet della prefettura. Abbiamo seguito quelle che sono delle istruzioni che sono arrivate dal ministero alle prefetture, dalle prefetture date ai singoli comuni. Abbiamo stipulato una convenzione formale con la cooperativa, in forza della quale la cooperativa si fa carico della formazione necessaria, dell'assicurazione e di fornire i DPI, gli strumenti di protezione per l'espletamento del lavoro. È su base strettamente volontaria, cioè gli ospiti della struttura che ritengono e vogliono, all'interno di quello che è il progetto di inserimento sociale e culturale che ha il soggetto gestore, nel nostro caso questa cooperativa, svolgere con queste persone, di affiancare, oltre a quello che è l'insegnamento dell'italiano, della cultura e delle basi del nostro diritto, la possibilità di un'istruzione professionale. E per il momento la vostra impressione è quella della comunità di Calizzano, è che è positiva, questa cosa è molto migliorata. Allora, noi ci dobbiamo fermare per 60 secondi per parlare di strade, però intanto, come vedete, qui siamo lontani dal fate di lavorare, obbligate a lavorare, un quadro diverso per affrontare in maniera poi positiva, sia per la comunità che li ospita, per il sindaco e i cittadini che avevano dei dubbi. Ma non siamo a campi di cotone, come diceva Alfano. Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci qua, tornate in diretta, Oscar e Carlo Alberto. Allora, un po' di SMS calientes su questo tema del far lavorare gratis immigrati, Carlo Alberto, vero? Ce n'è, sì. Diciamo, a qualcuno dice: se i rifugiati lavorano e con la retribuzione si pagano i costi dell'ospitalità, non vedo dove stia lo scandalo. E effettivamente questo punto è importante, perché ci fa tornare su il valore economico del lavoro e il valore economico dell'ospitalità, e quindi del percorso di inserimento. Ma diciamo, in generale i commenti sono abbastanza acidi, tipo: vogliono il wifi e non lavorare, e vogliono, come si fa a parlare di lavorare gratis se diamo loro 35 euro al giorno. Quindi l'Italia l'Italia che reagisce di pancia su queste cose, è qui che ci scrive e ci sta ascoltando. No, poi rendiamoci conto che l'Italia ha capito perfettamente quello che ci spiegava adesso il sindaco di Calenzano. Noi abbiamo un piano di ripartizione nazionale che è ferreamente gerarchizzato, cioè decide il Viminale e i comuni più o meno subiscono. Possono protestare in televisione, ma subiscono esattamente tutto il contrario di quello che c'è in Europa, dove c'è l'opting out. Quindi la gente poi capisce che noi viviamo in una situazione asimmetrica, siamo molto esposti e l'Unione Europea non ha una politica estera comune né di difesa. Vedremo quello che avverrà. Informo anche gli ascoltatori che dicono: ma guardate che non ci sono atti ufficiali in cui si chiede di farli lavorare gratis. Ci mancherebbe che ci fosse una circolare del Viminale e una dichiarazione del ministro che avete trovato su tutti i giornali la settimana scorsa, e che diceva ai comuni, per chiude la bocca ai comuni dissenzienti, dice: ma fateli lavorare gratis, no, ecco, così vi do mano d'opera gratis. Era un'infelice battuta di campagna elettorale, secondo me, però è grave che un ministro degli interni faccia arrivare questo messaggio, è chiaro? Perché è molto grave, oltretutto con il livello di intolleranza, che già è molto alto, degli italiani. Sentiamo come la pensa, prima di sentire l'esperienza di una cooperativa che opera nella Val Camonica esattamente su questo delicato terreno. Sentiamo l'opinione di Claudio, che ci chiama dalla provincia di Torino. Prego, Claudio. Buongiorno. Buongiorno. Anch'io volevo dire una cosa. Innanzitutto io non penso che si tratti di fare lavorare, di farli diventare schiavi. Io abito in Ivrea e li vedo nei giardinetti, annoiati, stanchi e cosa. Ma almeno farli guadagnare per quel poco che gli diamo, perché effettivamente gli diamo poco. Ma ecco, credo che è questione anche di dignità loro. Cosa ne dice? No, ma io sono per il lavoro di dignità, però il lavoro di dignità per quanto poco va pagato. E questa a me è la cosa che mi ha fatto sobbalzare, che il ministro intende dice fate di lavorare gratis. Io capisco, ha ottenuto un effetto, se giudico dagli sms, perché molti italiani incazzati dicono sì, lavorino gratis per quello che ci costano. Io lo capisco, però il lavoro gratis, le capisce, il lavoro gratis non, neanche per i detenuti funziona così nel nostro ordinamento. Anche per i detenuti, e io sono favorevole, dico, nelle condizioni particolari, per quanto basso, ci vuole una retribuzione, esattamente come diceva lei, perché il lavoro è dignità. Però su questo la realtà è che il ministro sapeva di soffiare il fuoco, e per questo c'è un calcolo elettorale, secondo me, esattamente su un bacino di fortissima intolleranza. Tu che dici, caro Alberto, il lavoro non remunerato? No, il lavoro non remunerato non esiste, non può esistere, perché è il contrario del processo di inserimento e di accoglienza che va proposto a chi chiede asilo e quindi entra nello status di richiedente asilo. Chiaramente dobbiamo distinguere tra l'immigrato rifugiato, esatto, nel percorso della richiesta di asilo, e il clandestino, che invece è illegale e come tale, come dire, non può essere trattato in questa maniera qua. Il percorso di inserimento prevede ovviamente, oltre all'inserimento culturale, anche un inserimento professionale. Noi abbiamo bisogno, vorrei chiarirlo, questo paese ha bisogno di un'immigrazione professionalizzata. E quindi lo dico per il bene del paese, non è una carità o dello schiavismo, è un processo intelligente di formazione di risorse lavorative che vanno a occupare ruoli che non sono più facilmente reperibili nella professionalità, diciamo, autoctona, e quindi vanno educati e inseriti professionalmente come si farebbe con non so, nuove generazioni. In questo senso il lavoro va retribuito in proporzione al livello di contributo dato. Questo è un percorso di inserimento serio. Esatto. Io poi sono per chi l'Italia adotti presto tardi anche le strategie di selezione del capitale umano di cui continuiamo ad avere bisogno. Ricordo tutti che nelle stime dell'Istat noi abbiamo bisogno per un equilibrio intergenerazionale, per i nostri conti previdenziali e per la bassa partecipazione al mercato del lavoro degli italiani che progressivamente diventano più anziani. La stima è tra 200 e 250 mila immigrati medi anni in più di qui al 2060. Questo lo trovate nell'Istat. È un banale equilibrio di conto intergenerazionale rispetto alle pensioni che dobbiamo pagare, che si pagano con i contributi di chi lavora. Però di italiani che lavorano ce ne sono pochi, non solo perché ci sono molti disoccupati, ma anche perché ripeto, l'attesa di vita cresce e noi di giovani ne abbiamo molti meno. Esatto, ecco, questo, quindi abbiamo bisogno di un'immigrazione selezionata, abbiamo bisogno, lo dico, di respingere chi viola la legge, perché per me lo Stato di diritto, la prima cosa da far rispettare è la legge. Poi chi invece ha il diritto di chiedere asilo va trattato come un futuro cittadino. Esatto. E quindi va pagato il giusto se lavora, e con quello magari si paga anche le proprie spese, con magari un sussidio ad integrazione, ma non carità pelosa in cambio di lavoro gratuito. Allora sentiamo l'esperienza di Silvia Turelli, che è operatrice della cooperativa Keypax in Val Camonica. Cosa ha provato lei quando ha letto sui giornali le parole di Alfano, fateli lavorare gratis? ma come si diceva appunto può essere anche una butade regionale. Detto questo, i progetti di integrazione servono quando sono finalizzati all'integrazione al percorso del ragazzo che sta richiedendo asilo. Noi come cooperativa appunto agiamo sul territorio in un progetto di accoglienza diffusa, ovvero non una grande concentrazione alberghiera in struttura, certo, ma in diversi appartamenti, seguiti poi da un operatore, diversi appartamenti che mantengono 4-5 persone al massimo, in diversi comuni in questa valle Camonica, in provincia di Brescia. All'inizio reattività della popolazione è diffidente e poi le cose sono migliorate oppure la diffidenza resta? Ma in realtà abbiamo fatto un forte lavoro di sensibilizzazione sul territorio prima di inserire gli appartamenti, i gruppi appartamento, quindi per quello credo che abbiamo mitigato un pochettino con questi sensazionalismi. Dopodiché appunto avere dei laboratori, dei ragazzi che si fanno vedere attivi sul territorio aiuta molto le persone nell'incontro, nel conoscersi, appunto appianano anche queste sensazioni di fastidio di questo ospite in attesa. Silvia, io faccio a lei una risposta, le chiedo una risposta a una domanda che ritualmente le verrà posta. Chi dice pensiamo prima ai disoccupati italiani, la sua risposta qual è? Che sicuramente bisogna attivare un welfare per i disoccupati italiani, ma il welfare attivato per i richiedenti asilo nulla toglie. Esatto, allora un paese civile deve avere una e l'altra cosa. Ecco, questa mi sembra una risposta equilibrata. Allora, grazie al signor Calizzano, grazie a Silvia Turelli. Adesso ci sentiamo noi dopo il giornale radio. Della Belva. Ed eccoci tornati qui alle 11:07 minuti primi 32 secondi dagli studi in diretta di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino e Carlo Alberto Carnevale Maffè. È una versione ristretta della nostra compagnia dei compari dei conti della Belva. Ci sono ancora molti sms che vale la pena, almeno per classi, per così dire, di orientamento, di citare, perché sapevo, immaginavo che la questione del far lavorare gratis gli immigrati avrebbe suscitato molti commenti, e diciamo ci sono, caro Carlo, un po' di commenti che dicono ma lo volete capire, certo, che ci invadono eccetera eccetera, invadono le case la notte per mangiare, ecco, molti giustamente dal loro punto di vista si augurano 10 anni di governo della Lega. Io credo che per il momento Salvini, di cui apprezzo il fatto che da militante gli hanno messo in mano un movimento che era sotto il 2%, adesso sta al 14-15, cioè un gran pedalatore, però una destra disunita è una clausola di garanzia per un governo pluridecennale di un PD a propria volta disunito, io la vedo così, e quindi questa è la mia opinione. Detto tutto questo, a chi dice, e questo è un filone molto forte negli sms, ma perché gratis in cambio di vitto e alloggio? Qui bisogna che ci intendiamo, esatto, cari amici, su che cosa vuol dire, perché se secondo voi gli ex CIE oggi cara sono il vitto e alloggio, la mia risposta è no. Se sono dei progetti di inserimento per chi è in regola, allora bisogna fare come vi abbiamo spiegato, come ha fatto il Comune di Calizzano, come l'esperienza della cooperativa in Val Camonica e così via. Allora, in quel caso è diverso, perché c'è un percorso formativo di apprendimento, di integrazione eccetera eccetera. Dire come fa il Viminale ai comuni che non vogliono la ripartizione di quelli che sono nei centri, nei CARA, prendeteli e fateli lavorare gratis, è invece un'altra cosa ed è completamente sbagliata, perché serve semplicemente a far venire l'acquolina in bocca ai sindaci che, contestati dalle loro popolazioni, dicono bene, abbiamo gente a cui far fare gli LSU gratis, cioè i lavori socialmente utili, mettere a posto le strade gratis. Ecco, questa è propaganda politica, non è una cosa seria, e secondo me non è neanche non è una cosa seria, soprattutto per uno Stato che deve porsi il problema di aiutare un certo tipo di immigrazione selezionata, motivata, di gente che vuole rimanere essere qua per fare il cittadino italiano, capite? Esatto. Non, cioè non vitto alloggio in cambio di lavoro gratis, ma che proposta da civiltà è questa? Allora, cambiamo pagina e andiamo alla scuola, perché siamo nel braccio di ferro. Ieri manifestazioni in cui, a dire la verità, c'erano più giornalisti politici che docenti in lotta contro la riforma della scuola a Piazza del Panto a Roma. Trovate le cronache un po' divertite e gustose su tutti i giornali italiani. Non vedevano l'ora per trovare un modo per fare un po' di polemica, visto che tutto il resto è stato bruciacchiato. La scuola sembra funzionare, però, detto questo, la scuola è il settore in cui hai voglia la FIOM, eccetera, eccetera. La scuola l'ha messo sotto il governo, perché CGIL, CISL, UIL, GIL, SNALS, 1 milione di dipendenti, tanti voti, le regionali aperte, la minaccia esplicita di dire beh, la facciamo pagare. La Camusso, sottolineo, la segretaria CGIL, partecipa a manifestazioni sulla scuola nelle diverse regioni e, dicendo esplicitamente per la prima volta nella storia, un sindacato della CGIL dice voi dovete andare a votare, secondo me, dice, però capisco chi vota scheda bianca o l'annulla, cioè la segretaria CGIL sta dicendo esplicitamente non votate il PD di Renzi. Questo è lo sfondo, ma questa settimana oltretutto c'è stato il boicottaggio delle prove Invalsi. Sì, perché una delle ragioni per cui queste cose funzionano è che c'è un potere di ricatto, dal mio punto di vista è inaccettabile, e nei momenti topici dell'anno, in particolare alla fine dell'anno, che sono gli scrutini, dove gli sindacati hanno un potere di rivalsa particolarmente forte. Grande polemica, perché il presidente della Commissione di Garanzia sullo sciopero ha detto prenderemo in considerazione l'ipotesi della precettazione di fronte al blocco di scrutini minacciato dai sindacati. I sindacati hanno fatto una grande levata di scudi, ma quello che ci interessa oggi riflettere insieme a voi, raccogliendo la vostra opinione e proponendovi delle testimonianze, è questo fatto che a noi ha molto colpito, cioè l'invito agli studenti delle scuole che dopo lo sciopero, dopo il 15 maggio, erano quelle che fanno parte del campione nazionale per i test Invalsi, di dire boicottateli. E i ragazzi, che a quel punto li hanno boicottati rispondendo in maniera sbagliata o beffarda, sentendosi degli eroi della resistenza, solidali con la lotta al grande nemico della riforma del governo, di cui una parte, la più contestata, è esattamente quella dei criteri di valutazione dei docenti, che non sono più affidati al preside sceriffo, come vi dicono, il dirigente scolastico sarà affiancato da altri docenti, e poi nella valutazione dei criteri si coinvolge sia tutto il collegio dei docenti, sia il consiglio di istituto, compresi gli studenti, eccetera eccetera. Ma detto tutto questo, il problema è, non è questo il modo per affrontare i problemi della scuola. Che cos'è questo merito? Ripeto, i sindacati hanno già ottenuto che valgano gli scatti di anzianità e non quelli di merito, il governo ha dovuto fare marcia indietro, c'è un premio aggiuntivo parametrato sul merito di 200 milioni di euro l'anno, ma questa questione di farsi misurare e valutare è una questione esplosiva. La mia opinione è che aver indotto gli studenti a boicottare i test Invalsi è una cosa per me inqualificabile, però naturalmente può essere che sia in minoranza. Però noi vogliamo innanzitutto spiegarvi che cosa sono i test Invalsi, perché partiamo dal presupposto che quasi nessuno lo sa, no? Caro Alberto, quindi abbiamo nostro ospite innanzitutto la professoressa Alessandra Angelucci, una professoressa di matematica e fisica di liceo e che ha lavorato alla stesura proprio dei test Invalsi. Buongiorno e grazie di essere con noi, professoressa. Buongiorno a voi, grazie di avermi interpellato. Allora, ci fa capire innanzitutto, spiegandolo a chi non è detto che lo sappia, che cosa sono i test Invalsi, a che cosa servono e poi ci dà anche la sua opinione su quello che è avvenuto, cioè dire agli studenti boicottateli. Ok. Partiamo da cosa servono, mi sembra la cosa più importante. Allora, i test Invalsi sono l'opportunità che hanno le scuole di vedere i propri studenti riguardo a degli argomenti di matematica e di italiano, a che punto sono, cosa hanno capito, cosa sanno applicare rispetto alle scuole di tutta Italia, della propria regione, del proprio livello, diciamo, della propria fascia economico-sociale. Quindi è l'opportunità di, come di mettersi, insomma, intorno a un tavolo e dire, oh, vabbè, vediamo un po', cosa abbiamo capito rispetto, non so, ai licei del Lazio, dell'Emilia Romagna, eccetera. Quindi, al di là di tutti gli equivoci sulla misura, sulla valutazione, su una possibilità di confronto tra scuole. Esatto. Su argomenti che sono quelli delle indicazioni nazionali, ovviamente come tutte le verifiche non possono comprendere tutto, non certo. Sono perfetti, non sono onnicomprensibili, però per fare ogni fascicolo Invalsi vengono impiegati 2 anni, viene tenuto conto degli argomenti che sono, diciamo, indicati dal Ministero, all'interno di ciascun argomento viene selezionato un tipo di abilità, di conoscenza, quindi sono ragionati allo stremo, ciascun quesito è ragionato allo stremo sotto tutti i profili, linguistico, contenutistico, eccetera. E la metà delle domande sono domande a risposta multipla per questione anche pratica, perché purtroppo l'istituto Invalsi non ha una quantità di finanziamenti diciamo adeguata al lavoro che dovrebbe compiere e non potrebbe permettersi di correggere tutte le risposte aperte. Poi le, comunque sono risposte anche quelle super mega ponderate, ogni tipo di risposta errata corrisponde a una possibilità di ragionamento errato, quindi ci dà una risposta comunque. Professore, vogliamo proprio smitizzare questo tema, questa crociata sulle crocette, come la chiamo io, no? Perché i test a risposta multipla non sono il diavolo, sono un modo razionale, efficace per velocizzare lo scrutinio delle risposte e anche per vedere, come dire, il posizionamento, perché anche le risposte sbagliate vengono analizzate nella loro. Quindi sì. C'è da capire anche questo, perché sennò la gente ha l'idea della crocetta come un giudizio eccessivamente riduttivo. Non lo è assolutamente. L'analisi intelligente delle risposte multiple, e lo dico perché faccio anch'io questo mestiere, è un modo per capire come mai si è sbagliato. Esatto, come mai si è strumento per centrare meglio e focalizzare meglio l'offerta quindi formativa. Questo è importante, perché bisogna riconoscere a chi come lei ha lavorato e lavora a preparare prove Invalsi, che sono prove veramente studiate molto bene, sono uno dei migliori lavori, i più accurati lavori di preparazione test fatti in Europa e vengono attaccati in maniera del tutto ingiustificata. Diciamo prego. Il fatto che non sa nessuno, prima di mandare a tutti i ragazzi d'Italia i questionari, l'anno precedente vengono pretestati su un campione statistico per vedere effettivamente se quello che noi pensiamo vadano a, diciamo, a vedere corrisponde a quello che rispondono i ragazzi. Che prova lei di fronte al fatto che tanti suoi colleghi respingano questo strumento e dicano, questa è la prima volta esplicita che avviene, agli studenti boicottateli? Allora, io credo che ci sia una confusione. Noi gli insegnanti siamo sotto attacco da anni e riceviamo solo bastonate praticamente. Quindi diciamo che alla fine si creano dei cortocircuiti, cioè si confonde una cosa con l'altra. Innanzitutto c'è anche questo spauracchio che non è che è stato inventato dai docenti, è diciamo un maglio bandito dalla stampa piuttosto che dalla politica, cioè che questi test Invalsi poi possano in qualche modo valutare anche i docenti. Falso. Consideri che io insegno lo so che è falso, però dovrebbero proprio non saperlo i docenti che dicono agli studenti di boicottarli, o no? Sì, ma guardi che l'informazione non è facile da ottenere. Cioè, lei ci dice che neanche i docenti lo sanno? L'Invalsi è l'unico modo per far arrivare l'informazione in maniera capillare, è il porta a porta. Lei ha mai visto una conferenza stampa? Ha mai visto una trasmissione di Invalsi in prima serata? Purtroppo no. No, lo capisco, ma avete internet, usate internet anche voi, sai, è una professione, quella di insegnamento che richiede un minimo di attenzione. Scusi, vogliamo mettere in parallelo la possibilità di internet con quello che ha la televisione? Però, professoressa, è mai andato qualcuno a spiegare cosa sono i test Invalsi? Infatti noi ci siamo posti il problema, spieghiamolo proprio per questo. Devo dire, professoressa, che mi sta accendendo una lampadina in testa. Io effettivamente ammetto la mia mancanza a questo punto. Io non avevo neanche immaginato che esistesse l'ipotesi che i docenti non sapessero di che cosa stiamo parlando. Le famiglie sì, milioni di italiani certo, perché come dice lei scarsa informazione, ma che i docenti non lo sappiano, invitano a boicottare non sapendolo, se è così dal mio punto di vista è ancora più grave. Ripeto, non ha dato un giudizio generale come io l'ho sintetizato. È corretto, no, se vuole correggermi su questo. No, no, no, no, no. Io non ho detto No, non glielo voglio attribuire. Ci mancherebbe. Io i docenti possono anche avere un'informazione. Il problema è che noi viviamo in tempi in cui credere a quello che ti viene detto è molto difficile. Sì, perché c'è poca chiarezza, anzi, diciamo che sembra che ci sia una rincorsa a creare il panico più che altro, più che a fare chiarezza. Sì, però. Quindi, se ti viene detto, e poi come ma perché? Sa, scusi. Scusi un secondo. Prego. È più facile credere alle cose negative che a quelle positive. Ma è più facile. Lei ha detto una cosa che per me è invece quello che mi conferma il mio allarme. Dice: i professori credono che servano anche per valutare loro. Esatto. Nei test Invalsi, non è così. No, guardi. Aspetti, lo so, mi faccia finire, professoressa. Non è così. Ma la reazione al tentativo di introdurre la questione di valutazione dei professori è esattamente uno dei punti invece su cui la protesta dei sindacati è esplosa su questa riforma. Allora, lì la mia domanda è un po' radicale. Cioè, nel Regno Unito, io ogni giorno rilancio il sito che c'è all'interno del sito del Ministero dell'Istruzione, si chiama Dipartimento, non Ministero, nel Regno Unito, c'è una cosa di consultazione facilissima anche per le famiglie meno, diciamo così, versate sull'offerta formativa, con una cartina per conté di tutto il Regno Unito, nel quale ciascuno familiare o studente può cercare di tutta l'istruzione primaria e secondaria, gli istituti, e trova i parametri di valutazione del merito ottenuti per singolo istituto, le verifiche delle ispezioni, i miglioramenti rispetto, lì c'è una griglia di triennio in triennio per far migliorare le posizioni in cui scattano altrimenti delle sanzioni che non sono l'impiccagione, come ovvio, e tutti nel Regno Unito sono abilitati a capire dove sta andando il sistema della formazione. Questa roba in Italia viene considerata da molti docenti come rompere l'eguaglianza del sistema formativo pubblico, dividere i professori e così via. Com'è possibile che in altri paesi si pratichi una cosa che non è mica fatta per altro se non per migliorare, per salire nella graduatoria del ranking internazionale OCSE dei test PISA? Io stamattina in questa settimana ho avuto dei docenti che mi hanno coperto letteralmente di insulti, dicendo che dovrebbero levarmi il diritto di parola sui test PISA, perché sostengono che io non so di che cosa sto parlando, e francamente che dei docenti ogni volta dicano ignorante a chi la pensa diversamente è una misura, secondo me, del fatto che è un po' intollerabile il dibattito pubblico italiano, perché continuo a considerare che noi siamo nella parte bassa del ranking nei paesi OCSE, una cosa insoddisfacente, e mi dicono no, non siamo in fondo, siamo nella seconda parte, ma stiamo molto migliorando. E per migliorare che io voglio avere dei criteri di valutazione, mica per fare plotone di esecuzione. Però, professoressa, me lo lasci dire, tanto abbiamo adesso, dopo la pausa torniamo, quindi facciamo rispondere. Questo è uno dei punti di fondo. L'Imbalsi non serve a misurare i docenti, ma sulla valutazione di quello che istituto per istituto fa nel proprio contesto sociale in paragone ad altri, quello è un tabù vero nel nostro paese, e non capisco perché, che cosa ci sia di male a credere che si possano fare questi criteri di valutazione. Questa però è una mia opinione. Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci tornati in diretta, Oscar Giannino e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Stiamo parlando di scuola, sfondo la protesta del sindacato contro il governo per la riforma di cui è iniziato l'approvazione dei primi articoli in Parlamento, ma ci stiamo soffermando su questi testi, i testi Imbalsi, di cui alcuni docenti, alcuni sindacati hanno detto, gli studenti questa settimana boicottateli. Vi abbiamo spiegato, ve lo ha spiegato avendone titolo la professoressa Alessandra Angelucci, che è con noi, che ha collaborato alla loro stesura, quanto sono seri e come non, ripeto, non servano a valutare gli studenti, ma servono avere delle indicazioni fondamentali per capire dove sta andando il totale. Per esempio, per capire cosa c'è dietro questa varianza colossale tra nord e sud. Noi abbiamo una disparità di risultati Imbalsi colossale in Italia tra nord e sud, in particolare nell'area logico-matematica, che è preoccupante. Quindi, per esempio, potrebbero servire per riallocare insegnanti a rinforzare aree del sud dove ci sono oggettive carenze. Quindi servono a migliorare l'impianto scolastico del paese, non a introdurre una cultura della meritocrazia infame, come ho letto in certi comunicati di qualche studente e di qualche docente. Noi siamo in debito di un'opinione, perché l'ho interrotta la professoressa Angelucci. Sentiamo due ascoltatori e poi facciamo replicare lei. Cominciamo con Carlo da Reggio Calabria, perdonate. Carlo, vai. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Io volevo dire che ho vissuto, insomma, questa situazione, questa protesta, questo periodo in una duplice veste, con un conflitto di interessi, se possiamo dire, perché sono insegnante e sono anche giornalista, modestamente soltanto pubblicista, mi occupo, insomma, di emittenza locale. E guardavo e notavo che l'informazione, come diceva giustamente la professoressa, rischia sempre di portarci a scivolare via di contesto. Perché questa ribellione, tra virgolette, rispetto agli Imbalsi è soltanto un sintomo, è una sintomatologia, non c'è stata negli anni prima, magari non ci sarà dopo, se le cose dovessero andare a, a ricollocarsi in un alveo un pochino più adatto a quello che è la scuola. Però da insegnante le posso chiedere questo? Sarà una reazione perché tutti hanno i nervi scaldati per la riforma, ma dei docenti che sanno di che si parla, la professoressa dice molti non lo sanno neanche loro, ok, ma non ci dovrebbero veramente pensare un miliardo di volte prima di dire agli studenti boicottate i test invalsi? Ma io ripeto, questa è una situazione di quest'anno in cui c'è un interlocutore che sembra sordo rispetto alla... E allora potenze. Carlo, lei mi sta non dicendo che però un docente in lotta per il contratto può dire agli studenti boicottate i test invalsi. Questo è quello che io non riesco ad avere da voi come risposta chiara. La mia risposta a questo, sarò brutale, chiamatemi ignorante, è no! Non esiste un motivo di contratto o di lotta per cui uno studente può dire, può ascoltare da un docente boicottato il test invalsi, perché vuol dire che la scuola viene meno. Chi lavora nella scuola? Il docente viene meno alla sua funzione primaria. Sarò un codino, ma la penso così. No, è un abuso di una responsabilità che lo Stato attribuisce a loro. Gli affidiamo, i nostri giovani non possono usare a fini sindacali legittimi interventi monopolistici peraltro e manipolatori sui nostri figli. Però siamo in minoranza, caro Alberto, perché senti che anche chi ci chiama ed è informato e sa e tutto e ci dice state sbagliando perché contribuite anche voi a inasprire gli animi. No, io vorrei una questione sul merito. Sentiamo Liliana da Torino. Liliana, prego. Buongiorno. Buongiorno, io sono vecchissima, sono del 1930, però ricordo che ai tempi miei io a 26 anni ero di ruolo perché bandivano i concorsi. Ora i sindacati non vogliono i concorsi, non vogliono valutazione della competenza, diciamo, sulla materia dei professori, e io ricordo bene, avendo fatto per i miei peccati le abilitazioni decentrate, i corsi abilitanti speciali, ricordo un manifestino firmato CGL, CISL e UIL e non autonomia libidinale, che richiedeva corsi abilitanti autogestiti e non selettivi. Allora Liliana, forse rientrare in azione, sentiamo la saggezza della professoressa Angelucci, che sicuramente ci dirà state esagerando. Che dice, professoressa? Allora io dico che comunque vi vorrei vedere a voi in un contesto in cui ci si sente veramente sotto attacco a tutte le parti, impotenti e inascoltati. Questa condizione può portare anche ad azioni poco condivisibili alla fine, perché è sempre così e infatti è sconsigliabile mettere chiunque in una condizione di disperazione o comunque di umiliazione, perché è una cosa che dovrebbe essere di buon senso, ma pare che ci si dimentichi la storia, appunto. Si parlava della Gran Bretagna. Lei risulta che la scuola pubblica inglese sia un modello da portare? Guardi, non cambia argomento. No, ma risponda. Lei, però, siccome stiamo parlando di valutazione e merito, sia di strumenti che servono... Lei non ha risposto, sì o no? Dipende per segmenti, no. Dovrei dare un giudizio. No, guardi, la risposta no, da me non l'avrà. Se vuole, le do la risposta. Di quale segmento dell'offerta formativa stiamo parlando? Sono abbastanza tentata sulla scuola secondaria. Scuola secondaria, io non ho dubbi. Io, infatti, voglio mandare il mio bambino fuori prima della scuola secondaria. Perché la scuola secondaria, per quello che capisco, nella stragrande maggioranza dei casi negli Stati Uniti e in moltissimi casi anche in Gran Bretagna, preferisco quella italiana. Questo è il mio giudizio personale. Lo manderà in una scuola privata? No, dipende, perché non è detto. No, come consiglio personale, allora nelle scuole private. Ma perché lei sta deviando rispetto alla valutazione sulla Gran Bretagna? Perché parlare della valutazione. Poi... Allora, la valutazione, dunque, è un discorso complesso. Io non sono contraria al fatto che ci sia un sito in cui, come in quel paese, tutti i cittadini possano vedere gli effetti delle valutazioni di ogni istituto in maniera comparata. Cosa c'è di male? Diciamo che a livello assoluto non c'è niente di male, però bisogna poi sempre stare in un contesto, nel contesto in cui si vive. Vedere come si fa, eccetera, eccetera. Io penso che in Italia il sindacato non lo voglia, è perché lo dicono chiaro. Il sindacato, la CGL dice invece che sarebbe perfettamente d'accordo, per esempio anche a... una differenziazione di stipendio, però in base alla mansione, cioè se un docente si occupa di aspetti di maggiore responsabilità, sembra adeguato che venga retribuito in maniera maggiore rispetto ad altri docenti. questo è pubblico come, come posizione. Non è però, però lei sa che all'inizio questa riforma, travolta, all'inizio proponeva il superamento per il 70% degli scatti, come tutti i dipendenti pubblici siete fermi da anni, credo che, la, credo che la Corte interverrà anche su questo dopo le pensioni, sì, e no no, ma lo farà perché c'è una pronuncia in arrivo, vedremo gli effetti, ma detto questo la riforma all'inizio proponeva che il 70% fosse fatto degli scatti nuovi, quelli che, di cui si chiede il nuovo contratto, fosse fatta attraverso valutazione in merito al 30% di anzianità. Il PD e il governo è stato travolto perché gli scatti di anzianità rimangono e c'è una questione di quei 200 milioni, come sa, aggiuntivi da attribuire attraverso valutazione di merito. 200 milioni sa quanto, quanto viene a testa? 40 euro? Certo non vorrà pensare che siano 200 milioni, sarà una cifra ridicola. Comunque, però la questione è il dire no alla cifra ridicola perché è un piccolo pezzo per farsi valutare o è no a farsi valutare, professoressa? Beh, e poi il denominatore non è detto che sia l'intera popolazione degli, degli insegnanti, e se lei li concentra su pochi meritevoli magari la cifra è un po' diversa. È chiaro che se 200 milioni di incentivi vengono spalmati a pioggia evidentemente non sono un incentivo, al di là del valore assoluto, professoressa. Sì, comunque ci sono delle nazioni che possono essere prese, esempio, per esempio la Francia, in cui ci sono dei sistemi differenziati, cioè lo scatto d'anzianità di base e poi un docente che ritiene di essere più bravo, diciamo, può chiedere ad ispettori qualificati sulla disciplina. Solo se lo chiede lui, allora va bene. No, calma, può chiedere di essere valutato e può quindi fare uno scatto anticipato e altrimenti c'è una valutazione di sistema ogni 8 anni. Il punto è che lì c'è un sistema strutturato, oliato, ben funzionante, in cui, ripeto, gli ispettori non sono laureati in giurisprudenza che conoscono la normativa ma non sanno un tubo di didattica della matematica, ma un ispettore che è un, diciamo, un'autorità in didattica della matematica, effettivamente è in grado di capire se il mio metodo di insegnamento è, diciamo, merita quella attribuzione. Professoressa, ma se mai noi facciamo un primo passo verso un metodo oliato messo nelle mani di personale competente nel valutare per singole aree, materie, eccetera, se mai facciamo il primo passo, perché si dice sempre no. Guardi, non è vero, non ci faccia passare per isterici. Ma quale isterico? Io dico, io rispetto il fatto che è una visione, è una cultura, mica sto, io non mi permetto cultura, di fare la caricatura. La cultura si cambia con i tempi e i modi giusti. No, per carità. Altrimenti facciamo. Ma non voglio le cose autoritarie. Dico un primo passo. Il primo passo si deve fare nel verso giusto. Se il primo passo è i più meritevoli. Quindi l'alternativa è tra il verso giusto e cambia verso. Per così. No, questa è una battuta solo perché nel ringraziarla, professoressa, almeno abbiamo sperato di dare un contributo a chi è in ascolto e non sa di che cosa sono i test invalsi, di aver capito che sono una cosa seria, fatta da persone serie, non fatti da supporto del governo, per così dire, né da persone strapagate, non c'è dubbio, anzi, da persone di cui questo paese in realtà è in debito per quello che riguarda anche lo stato sociale, l'importanza che gli riconosciamo e così via, un pezzo fondamentale del nostro paese. Da persone che lo fanno per passione e non vengono riconosciute per la passione che ci mettono, questo bisogna riconoscere. Però che abbiano poi punti di vista diversi, perché io continuerò a pensare che un primo passo si può fare, la professoressa dice sì, ma purché sia fatto nel modo giusto. Però io temo che non lo avremo. Ha detto una cosa bellissima sulla intervista al Fatto Quotidiano: è sacrosanta la libertà di insegnamento, ma non quella di cattivo insegnamento. Certo, però bisogna dare appunto, io sono d'accordo che ci dovrebbe essere un sistema per cui se c'è un docente manifestamente inadatto dovrebbe essere allontanato. Però grazie, noi siamo professoressa, in Italia, grazie veramente per questo, che ci teniamo per salvaguarda a fondamentale al diritto dei nostri figli però di studiare. Con montagna salis, perché altrimenti succedono le porcate all'italiana che purtroppo sappiamo succedere. Professoressa, sa meglio di me che la dispensa, si chiama così, è consentita già nell'attuale ordinamento e che è più rara di una morte per cobra nel nostro paese. Perché siccome ho chiamato l'unico dirigente scolastico che l'ha applicata l'anno scorso, l'ho chiamato in trasmissione, mi sono fatto spiegare perché i miei ascoltatori sanno che si può fare già nell'attuale ordinamento ed è più frequente una morte per morso di cobra nel nostro paese, quindi per favore stiamo ai numeri, perché i numeri più o meno, seppur da ignorante, io non faccio altro che guardarli e tentare però di farmeli interpretare da persone più competenti. Quindi siamo in dieta iposodica rispetto al cucurano salis. Allora, grazie alla professoressa Angelucci e ci sentiamo tra un minuto e andiamo a vedere un'altra bella cosa sulle pensioni. Fratelli d'Italia, l'Italia le vesto dai tempi. Conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta, Oscar e Carlo Alberto. Eccoci qua, nel frattempo che continuiamo a tentare di stabilire il collegamento con Renato Cifarelli, con gli ospiti dei freelance, degli autonomi ipertartassati dal punto di vista contributivo, per capire come la prendono loro questa sentenza della Corte Costituzionale che da loro prenderà i soldi, che non hanno le pensioni e non le avranno come chi invece oggi va reintegrato per la sentenza della Corte. Ma nel frattempo che noi proviamo, continuiamo con le telefonate sul tema di cui ci siamo occupati prima, cioè la scuola e l'Invalsi, con Riccardo da Bolzano. Prego Riccardo. Sì, pronto? Eccoci Riccardo. Sì, buongiorno. No, niente, io dicevo che secondo me i testi Invalsi, così come sono strutturati, non fanno capire granché, perché tante volte gli studenti sanno le cose ma si trovano davanti a testa crocette oppure a domanda aperta e non sanno cosa scrivere, nonostante sappiano di cosa si sta parlando. Sarebbero molto meglio le Olimpiadi della matematica o le stesse cose riguardo altre materie, che danno anche al ragazzo o alla ragazza un certo entusiasmo nello svolgere questo compito. Ma non sono alternative, sono complementari a quelle cose. Un attimo, mi scusi, prego. Perché se parlo io non parlerei, poi io non capisco cosa dice. E questi, questi risultati, secondo me, anche perché ho visto praticamente cosa succede, sono più veritieri rispetto a quello che un ragazzo o una ragazza hanno imparato durante l'anno scolastico. Volevo dirle poi che dopo, per tutto l'altro, per tutte le altre cose si può essere d'accordo o non d'accordo. Secondo me la riforma del governo Renzi non è che vada a, cioè non è positiva per come è stata concepita. Poi vediamo al Senato come uscirà. Però lei dice tecnicamente per come sono concepiti i test. Esatto, sì. Però le dicevo che un conto è un test che tende a misurare un livello di preparazione omogeneo, deve essere per forza standardizzato. È un conto è una prova incentivante come le Olimpiadi della matematica, che ha un altro senso, che non è verificare la preparazione standardizzata, ma appunto motivare, far crescere passione. Sono due cose molto diverse. Le seconde assolutamente non sostituiscono le prime, anzi complementano le prime, perché giustamente non si può porre soltanto test di verifica e di misurazione, bisogna anche proporre percorsi di motivazione. Sono due processi paralleli e non alternativi. Si chiama Alessandro da Milano. Alessandro, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io al di là di considerazioni poi sulla paura della meritocrazia, volevo solo portare una testimonianza. I miei figli sono di Milano, fin dall'asilo frequentano la scuola internazionale. Sì. Ecco, sia per gli studenti che per i professori c'è una continua verifica, addirittura a livello centralizzato a Londra. Infatti anche gli esami sia per la EB che per gli esami intermedi vengono valutati da Londra con criteri da Londra. Ma non è tanto quello, è che, ripeto, i professori ricevono stipendi non tanto distanti, ma comunque differenziati sulla base dei rendimenti. Esatto. E anche i ragazzi, al di là del fatto che si paghi anche abbastanza, non è che perché tu paghi vieni promosso e hai il diploma EB, perché la filosofia è molto semplice. Io ti vendo una merce, se la mia merce viene svalutata dal fatto che te la do perché paghi, ti vendo il nulla. E questa è un po', secondo me, la questione che c'è nella scuola italiana, dove tutti passano e la selezione la fanno a 28 anni e non a 15. Sta toccando una serie di nervi scoperti terrificanti, perché innanzitutto capisce che l'idea che l'offerta formativa debba essere valutata secondo come poi avviene nella vita reale, secondo criteri di mercato, lei ottiene, i sindacati la mettono al muro. Questo è il motivo per cui noi abbiamo una occupabilità bassissima dei nostri giovani comparata a quella degli altri paesi. Questo è perché abbiamo scelto che siano i pedagoghi a dirci come deve essere fatta la scuola e l'abbiamo licealizzata, uccidendo il percorso duale professionale che i tedeschi hanno tenuto in piedi. E infatti ci sono 25 punti percentuali di giovani sotto i 24 anni più occupati in più, scusate, rispetto ai nostri. E non perché non studino, ma perché hanno un percorso di formazione duale. Ecco il motivo per cui abbiamo un'università in cui il 44,7% degli iscritti all'università tedeschi sono in corsi universitari, facoltà, ma professionalizzante, da noi lo 0,8%. Ecco, tutte queste cose lei le ha toccate in un modo che spiegano la sua scelta, ma minoritaria assolutamente rispetto al dibattito che c'è nel nostro paese. Questo è amaramente vero. Adesso abbiamo beccato Renato Cifarelli, però ci resteranno solo 4 minuti perché ci dobbiamo risentire tra un minuto. Della Belva. Eccoci tornati in diretta, Oscar. Caro Alberto. E c'è anche Renato. Renato. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Oscar, ciao caro Alberto, buongiorno a tutti. Allora, oggi sono in un pericoloso covo di gente che ha la partita IVA ed è contenta di averla, quindi ma tu non sei in linea con il renzismo trionfante, no? Devi convertirli tutti in contratti stabilizzanti. Adesso cerco di convertirli in contratti stabilizzanti, però sai che hanno un piccolo problema con le pensioni. Ti passo Elisa, che è dell'ACTA, che sta facendo una bellissima battaglia per le pensioni degli autonomi, Elisa Marras. E così potete parlare con lei di queste cose. Allora, la passo. Elisa Marras di ACTA. ACTA è l'associazione dei consulenti del terziario avanzato. Buongiorno, io ti faccio, Elisa, una domanda secca: come ci si sente portatore freelance con la partita IVA dopo essersi impegnati alla morte, perché c'era l'ennesimo scatto di aumento dei contributi che stava scattando e così via, di fronte al fatto che poi arriva la sentenza della Corte Costituzionale che dice che bisogna rimpinguare lo stop all'adeguamento dell'inflazione però a chi le pensioni le ha avute, il più sono retributive, cioè rispetto ai contributi versati sono multipli, e deve farlo naturalmente in un sistema di ripartizione esattamente chi oggi quelle pensioni non le avrà, non è detto che abbia la continuità, cioè voi. Cioè, come ci si sente? Chiaramente ci sentiamo traditi per l'ennesima volta e presi veramente per i fondelli, diciamolo pure. Ecco. Abbiamo scritto su questo, abbiamo un po' battagliato, siamo andati anche qualche settimana fa a incontrare il presidente dell'INPS Tito Boeri e gli abbiamo consegnato una lettera con le nostre istanze, insomma una cosa fatta in concertazione anche con altre associazioni, era una coalizione, così, perché vorremmo che si ridiscutessero un po' i punti di tutto questo. E come ha reagito il buon Tito Boeri? Ma no, si è reso anche abbastanza disponibile, è stato, sembra interessato, insomma sembra che ci sia un interesse generale un po' maggiore nei confronti di France, questo è sicuro, insomma anche Tre ultimamente ha fatto un articolo in risposta alle parole di Anna Soru, la presidente di ACTA, insomma sembra che ci sia un interesse crescente verso il mondo di France, che è un mondo che comunque sia rappresenta il futuro lavorativo di questo paese, non soltanto, ecco, per cui non so, siamo mediamente fiduciosi, più o meno mediamente fiduciosi, vedi che l'ottimismo si vede, che questa chi fa questo mestiere è costretto all'ottimismo per sopravvivere, caro Oscar. Qui il problema è che, come dire, alla mattina devi fare come le gazzelle nel deserto, cominciare a correre perché il leone fiscale ti morde le chiappe, purtroppo. Io invito chi è in ascolto a riflettere su alcuni dati. Da che c'è Tito Boeri all'INPS, molti potranno discutere eccetera, noi abbiamo guadagnato in trasparenza informativa da parte dell'INPS, abbiamo cose che sapevano solo chi si guarda nei bilanci le diverse gestioni. L'INPS ha proposto i casi più scandalosi di gestioni previdenziali retributive con i multipli più elevati rispetto ai contributi versati e nei trattamenti erogati, cioè gli elettrici, gli ex poster grafonici e così via. Ieri c'è stato questo bellissimo riepilogo su paragone tra totale delle pensioni del mondo del lavoro pubblico e privato, con le pensioni dei trattamenti erogati pagati attualmente nel 2014 al mondo pubblico pubblico del 72% più elevato rispetto a quelle private. 72%! Ma vogliamo renderci conto che un paese in cui c'è un divario del 72% a favore dei pensionati pubblici è un paese con la dimensione della ladreria! Ladreria! Sulle spalle dei privati, che come vedete questi autonomi con cui siamo collegati oggi sono anche poi fiduciosi e ottimisti. Io sarò vecchio, invece ho la bile che mi esce dagli occhi. 72% di differenza, cioè Lì l'importo medio è 1770 euro e quello dei privati è 1000 euro. Ma è una roba... Ecco, è meglio saperle queste cose, così si giudicano anche meglio le sentenze della Corte Costituzionale. Tu che dici, Carlo Alberto? Dico che, come sai, la pensione in questo paese è stato un modello di politica economica più che un principio di responsabilità individuale. E finché lo Stato decide lui, come dire, quali sono i diritti inalienabili dei cittadini, c'è un bel pezzo di Fabrizio Forcheo proprio di oggi sul Sole 24 Ore, e fa la cultura dei diritti senza specificare i doveri corrispondenti, noi stiamo diseducando una nazione a un principio di sostenibilità. Qui, non so, Renato, tu, che si dice dalle tue parti su questo? Renato? Renato, c'è ancora? No. Renato. Ci siamo persi, Renato. Ci siamo persi, c'è poco da fare, la banda larga. A questo proposito, ci sarebbe un'altra battuta da fare in un paese che mobilita. È tornato. Sento il rombo della Harris. Pronto. No, Renato, volevo sapere, dici tu qualcosa, cioè che si dice da quelle parti? Io oggi volevo portare la vostra attenzione a una cosa simpatica. Esatto, andiamo su quella, bravo, per concludere. Parliamo di banche. Perché le banche popolari sono uno dei nostri cavalli di battaglia, sì. Ecco. Siccome la politica non c'entra assolutamente nulla con le banche popolari, il Consiglio regionale lombardo ha approvato una mozione che impegna la Giunta a presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro la riforma sulle banche popolari. E che c'è, Zecca? Questo assolutamente per una questione di finanziamenti alle piccole aziende, cioè non è perché magari dentro a qualche fondazione c'è qualche politico, poi arrivano gli stranieri e magari questi politici non gli fanno fare più il presidente. È solo perché loro vogliono una situazione in cui la banca popolare dà agli amichetti i soldini, e solo ed esclusivamente per quello. Poi, la cosa che tu pensi male, a me la cosa che colpisce particolarmente è che la Lega faccia questa cosa qui, cioè la Lega, Bobo Maroni. Sai, la Lega cerca di difendere il territorio, almeno. Ma il territorio, ma voglio dire, abbiamo i dati comparati della distruzione di valore fatto da gang che controllando e comprandosi il voto delle assemblee dei soci in nome della finta mutualità hanno gestito malissimo e con mala gestio molte di queste grandi popolari che infatti adesso diventano spa. Perché la Lega deve difendere queste torri di amici? La Lega, come non so se ti ricordi, aveva fatto anche una banca che non aveva dato grandissimi ho capito, ma proprio per quello sbagliando si impara, perché altrimenti vuol dire proprio che, ecco, questo è veramente singolare, veramente. Caro Alberto, tu che ti sei un po' sorpreso? No, e sono sorpreso perché la lettera del BCE con quale si giudicava questa riforma è draconiana, dice conflitti di interesse, mancanza di controllo sul management, i pullman organizzati col prosecco e col panettone per votare il consiglio di amministrazione, e dopodiché andiamo a parlare del finanziamento alle imprese locali. Il problema è eliminare i conflitti di interesse fra clienti, azionisti, manager e consiglio di amministrazione, così, che hanno garantito una eccessiva concentrazione del rischio finanziario. Io lo dico fuori dai denti, questa settimana quando ho visto che è saltato l'amministratore delegato alla Popolare di Vicenza e resta il presidente Zonin, non va bene neanche quello dal mio punto di vista. Vi dirò di più, nella banca più internazionalizzata d'Italia, cioè Unicredit, che questa settimana ci sia stata l'assemblea vero. E con il 46% dei voti d'assemblea hanno eletto 16 membri del CDA, e tutti i fondi, gli investitori istituzionali, i fondi esteri col 54% ne abbiano uno, è uno scandalo. E quello scandalo per me si chiama Assogestioni, che presenta una lista con un solo candidato. Assogestioni che dovrebbe fare la battaglia per la trasparenza e per amplificare il numero degli eletti indipendenti, e invece è collusivo con chi controlla le banche. Me ne prendo la responsabilità, mi quererino, voglio andare in tribunale per quello che sto dicendo. Ti porteremo le arance, dai. Va bene, grazie a Renato, grazie a Carlo Alberto, continuate con Radio 24, ci sentiamo con Conti della Belva sabato, ma lunedì versione di Oscar alle 16:30.